This is la Mannaia Production. Sem 61, morto che parla. Benvenuto nel paese dei balocchi. Stai in mezzo a sbirri, politici corrotti. A prima vista buoni, ma sono i più balordi. Chiamata per biscotti, loro non sono nazi, ma grida sporchi negri, la razza più bastarda. Made in Italia, riconosciuto al mondo, giusto per la mafia, la pizza, spaghetti. Se questa è l'andrangheta, le morti nel lavoro. Lo sai figlio, capita, ho le mani su una lastra d'amianto. Pedofili invocati dal signore al Vaticano. Mi guardo bene in mano, mi scoprono che un cazzo è non proprio un cazzo, ma un cazzo di cancro tra lotte e video poker. Gratta vince scopre che ha vinto 5 euro su 50 sono altrove. La benza che non cala, ma arrangio con la mala, perché sai con le buone la tua vita qua non cambia. Benvenuto nel paese dei barocchi, signori d'alta moda, ultra che s'ammazzano per tutti poco conta. Tra serpi e carogne, l'Italia è la troia d'Europa che ingoia ogni scoglia. Benvenuto nel paese dei barocchi, signori d'alta moda, ultra che s'ammazzano per tutti poco conta. Tra serpi e carogne, l'Italia è la troia d'Europa che ingoia ogni scoglia. Aio, benvenuti al paese dei barocchi, gli italiani medi stanno diventando sciocchi. E quelli ricchi fanno i furbi assurdi, noi e voi, prede di avvoltoi. Qui paghi la Rai che è un canale nazionale, tutti generosi ma solo per Natale. O per le elezioni, li vedi fanno i buoni, siccome la chiesa che si fa i soldoni. Mentre fuori vedo un mucchio di barboni, non se vogliono fare lo Stato federale. Ovvio che va male, ovvio che mi carico di odio contro lo stivale. Non mi puoi stoppare, prese per il culo a livelli, chi lo fa in faccia e chi no. Sabba sono a tassa ma un'altra salsa, peggio per la massa che resta a testa bassa e si merita la farsa. Benvenuto nel paese dei balocchi, signori d'alta moda, ultra che s'ammazzano per tutti poco conta. Tra serpi e carogne, l'Italia è la troia d'Europa che ingoia ogni scoglia. Benvenuto nel paese dei balocchi, signori d'alta moda, ultra che s'ammazzano per tutti poco conta. Tra serpi e carogne, l'Italia è la troia d'Europa che ingoia ogni scoglia. Figlio di dipendenti dello Stato, sono un altro soldato che ragione poi manda a fanculo il capo. Solite storie strane, dimmi tu che cosa fai. Fa un piacere, paga tu per me le tasse universitarie, sì. Fanno le leggi a conto loro per pararsi il culo. Dammi Silvio, prima lo frantumo e dopo lo trituro. Dio benedica mio padre che non può camminare, ancora si rompe la schiena presso una filiale. Documenti su documenti ma non mi convinci. Ciao, io sono Senka e butto giù tutti i tuoi uffici, sì. Ricorda che sei tu che comincia a darci ispirazione per i nostri dischi mentre fotti poveri cristi. Vai a chiedere quali benefici hanno avuto madri di figli fottuti che sono autistici. Nada de nada, perché quello che è disabile al cervello e toglie il pane dalle nostre tavole. Benvenuto nel paese dei balocchi, signori d'alta moda, ultra che s'ammazzano per tutti poco conta. Tra serpi e carogne, l'Italia è la troia d'Europa che ingoia ogni scoglia. Benvenuto nel paese dei balocchi, signori d'alta moda, ultra che s'ammazzano per tutti poco conta. Tra serpi e carogne, l'Italia è la troia d'Europa